Vivi Musica in Trentino, un viaggio musicale nella voce degli artisti, degli organizzatori e del pubblico. Un programma a cura di Daniele Torresan, con la collaborazione di Cosimo Colazzo. Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, un cordiale saluto da Daniele Torresan e Cosimo Colazzo. Oggi parleremo di un'interessante iniziativa che si svolge da alcuni anni nel territorio della Valle dell'Adige tra Trento e Rovereto, su cui si affaccia con la sua storia lunga Castel Beseno. È qui che si svolge il Festival Porto Beseno, che si tiene in estate e che tratta temi interessanti come quelli del paesaggio sonoro e delle opportunità creative dell'elettronica nel trattamento del suono e nell'invenzione compositiva. Normalmente la dimensione sonora del paesaggio che ci circonda non è fatta oggetto di un'attenzione selettiva, viene assunta come un dato di fondo sostanzialmente omogeneo. Invece il mondo sonoro che ci circonda non è qualcosa di inerte, un'abitudine che non ha una storia. È qualcosa di dinamico che cambia insieme con tanti altri fattori a cui è legato. Il suono è parte integrante di un sistema, di un ecosistema, dove entra l'impronta della natura come quella delle attività umane, variabilmente a seconda dei luoghi. Quindi il mondo sonoro utilmente va scoperto nelle sue articolazioni, nei suoi volti, nelle sue identità. È quanto fa Porto Beseno con una serie di attività culturali, didattiche, di promozione sociale e con il festival per cui su questi temi chiama a prodursi creativamente diversi artisti. Porto Beseno infatti si muove lungo due direttrici di impegno. Durante l'anno attraverso laboratori didattici nelle scuole con un'attività di raccolta di suoni e di mappatura sonora del territorio. Per l'estate realizzando il programma di un festival che sulle tematiche dei suoni, intesi non in senso astratto ma come proprietà e struttura di un territorio, chiama a lavorare musicisti e performer per progetti innovativi. Oggi intendiamo portare attenzione su questo lavoro composito che viene realizzato e che risulta molto interessante per i caratteri di ricerca e di impegno sociale che vi sono implicati. Il lavoro di ripresa e catalogazione sonora, che ha riguardato soprattutto le zone di Cagliano, di Nomi, di Folgaria e della Val Lagarina, assomma ormai a diversi anni, così che può costituire un archivio capace di ridefinire una mappatura sonora del territorio, da intendersi in termini complessi. Si tratta di suoni antropizzati, dei suoni che scandiscono la vita sociale e del lavoro, dei suoni dei racconti degli abitanti. Si determina una stratificazione delle realtà sonore che corrisponde alla complessità della storia e della vita sociale del territorio. La mappatura, corrispondente a un interesse continuo e strutturato, determinatosi in lunghi anni di attività, sviluppa una consapevolezza estesa e approfondita, sensibile e dettagliata del territorio. In questo senso, essendo minuta e corrispondendo molto da vicino al territorio su cui agisce, può aspirare a intervenire dentro la comunità, suscitando una presa di coscienza dell'ambiente e della società in termini sonori. Non di meno importante dal punto di vista sociale risulta l'intervento nelle scuole con i progetti che sono mirati a sviluppare una sensibilità per la dimensione sonora della natura come delle attività umane. Questo permette di sviluppare un potenziale di attenzione per l'ambiente molto più ampio e avvertito dal punto di vista ecologico. La dimensione della creatività, con le produzioni sperimentali che si realizzano nell'ambito del festival, permette di proiettare la sensibilità per il sonoro in dimensione artistica. In questo senso, l'apporto delle tecnologie è importante. Permettono un diverso rapporto con il suono che può essere ripreso, registrato, analizzato, ricostituito, promuovendo nuove e più aperte possibilità di realizzazione creativa. Oggi ci addentreremo in queste tematiche parlandone con Davide Onderstoller, che coordina e cura le attività di Porto Beseno. Ci può dire come nasce il vostro festival con il suo interesse spiccato per il paesaggio sonoro? Sì, buongiorno a tutti. Il festival nasce nel 2004 è un progetto molto particolare perché intende coniugare la memoria del territorio con le nuove tecnologie. La nostra idea era appunto di riuscire a raccontare il territorio attraverso degli aspetti che solitamente vengono considerati marginali, che la memoria orale, il paesaggio sonoro e una loro interpretazione sotto un profilo strettamente artistico di ricerca, quindi diciamo pure proprio non popolare. Una sorta di soundscape, per dirla un po' all'americana, cioè un paesaggio sonoro riportato come archivio anche sonoro e anche riferito al sociale. Sì, assolutamente, anche perché la prima fase del festival, che è durata 3 anni, si è proprio incentrata unicamente sulla memoria orale, cioè questa capacità del territorio di raccontarsi attraverso storie raccontate soprattutto da anziani e che avevano come punto di riferimento il castello di Beseno. La nostra idea era di raccontare il castello attraverso la memoria del Novecento e sviluppando insieme a Sara Maino, che è l'altra curatrice del Festival Porto Beseno, una serie di ricerche e una serie di sviluppo di installazioni sonore da ospitare a Castel Beseno. Che strumenti adoperate per registrare, per archiviare questi suoni? Beh, tecnicamente abbiamo usato varia strumentazione negli anni, anche perché in 10 anni si è evoluta la tecnologia in maniera piuttosto veloce e quindi, una curiosità, siamo partiti dal vecchio mini disc per arrivare adesso ai registratori quadrifonici, a più microfoni durante la registrazione, soprattutto per quanto riguarda il paesaggio sonoro. Mi piacerebbe però incentrarmi inizialmente proprio su questa ricerca della memoria orale che ha permesso la creazione di un archivio piuttosto originale e unico in Trentino, perché la ricerca è stata ampliata a decine di testimoni, quindi con questa formazione di un archivio che poi è stato ridonato attraverso le opere di artisti, musicisti e artisti multimediali in genere, e quindi con questo doppio effetto di avere l'archivio ma di avere anche una ridonazione artistica durante il concerto. Un'altra parte interessante della vostra attività è quella che conducete in rapporto con le scuole. Che tipo di attività realizzate? Sì, questa è stata un'esigenza che ci hanno chiesto le amministrazioni comunali che ci sostengono, che sono Cagliano, Besenello e Volano in Vallagarina, in qualche maniera uscire dal castello e dal festival e di cercare di operare sul territorio. Quindi era proprio un'esigenza concreta di entrare nel territorio, e per noi è stato uno stimolo perché ci ha permesso di creare un progetto insieme a Sara Maino che si chiama Narrare il territorio. Narrare il territorio è un progetto piuttosto particolare perché, come diciamo ai bambini, si tratta di pensare con le orecchie, di entrare in un territorio e scoprirlo con l'udito. Non è solo, come si può pensare, l'ascolto dei paesaggi sonori o quelli che chiamiamo noi microsuoni o i suoni caratteristici, ma è, e quello l'abbiamo scoperto man mano che abbiamo fatto il laboratorio, entrare nelle storie della comunità. E ci siamo accorti durante gli anni che comunità vuol dire parlarsi e quindi ascoltare soprattutto, e ascoltare le storie e sviluppare assieme una coscienza della memoria del territorio, della comunità. Quindi fate anche una sorta di attività di promozione sociale, cioè con quali soggetti esattamente entrate in rapporto? Cioè... Abbiamo attivato dei laboratori con l'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina e abbiamo lavorato con le classi quinte, che sono 5 sul territorio, e dopo una fase di, diciamo, di conoscenza con il personale docente abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto che adesso ha 5 anni e che è ben diverso da come l'abbiamo introdotto all'inizio. Pensate che all'inizio il progetto si chiamava Microstorie del territorio, perché l'idea era di associare un fotogramma, una fotografia a una storia o a un paesaggio sonoro. Quindi era di creare proprio delle pillole da posizionare sulle mappe, perché noi lavoriamo molto su internet e quindi questa ridonazione degli archivi per noi è molto importante, perché è un'importanza sociale, se vogliamo, e quindi l'introduzione dei Creative Commons, dei diritti d'autore, della liberatoria assoluta, che della possibilità di scaricare per esempio tutti i contenuti e di riutilizzarli, per noi è molto importante visto che lavoriamo con soldi pubblici essenzialmente. Ascoltiamo ora un estratto audio da Strada Provinciale 59, un'opera di Lino Greco per la parte visuale e di Daniela Cattivelli per la parte audio. È una produzione di Porto Beseno del 2008, un dialogo con un paesaggio sonoro che è segnato dal traffico automobilistico ferroviario, dal suono delle campane, della natura, del fiume Adige. Abbiamo ascoltato un'opera di Lino Greco e Daniela Cattivelli, Strada Provinciale 59, praticamente ispirata ai suoni di un tratto di strada abbandonato nel tragitto Nomi Cagliano in Vallagarina, ed è quindi diventato lo spunto per una performance che narra la complessità sonora del fondovalle Lagarino. Ci può parlare ora in termini più approfonditi del vostro progetto di archivio sonoro? Il senso del progetto, ma poi in concreto rispetto al territorio su cui agite, che cosa avete ricavato, che cosa emerge come qualità specifiche dell'ambiente e del territorio? C'è una cosa che mi ha sempre colpito, è il sottofondo sonoro della Vallagarina, che sicuramente la fa da padrone l'autostrada, perlomeno nel tratto che ci interessa a noi, che è quello dell'Alta Vallagarina tra Trento e Rovereto. La valle è molto chiusa e ospita un paesaggio sonoro denso di traffico automobilistico. Beh, se pensiamo che l'autostrada del Brennero è una delle autostrade più trafficate d'Europa, associata ai classici paesaggi sonori extraurbani, che sono le campane e in parte il rumore dell'acqua, poi passando fino ai suoni circoscritti come il suono delle fontane o altri suoni tipici, se vogliamo, come quello dei trattori agricoli o situazioni proprio a livello extraurbano. Come vede la dimensione politica del vostro lavoro? Che cosa produce dentro lo spazio della vita concreta delle comunità in cui intervenite? È un aspetto molto interessante, perché noi abbiamo sempre pensato di fare politica, nel senso di ritornare a questo approccio al territorio, a questa consapevolezza di vivere un territorio che, come tutti i territori di per sé, è originale, nel senso che è particolare, e quindi di cercare di dare una maggiore coscienza della geografia sonora, ma anche dell'identità che è fatta di questi suoni. A me ha colpito molto qualche anno fa un'artista sudcoreana che si è stupita del suono delle campane, del fatto che ogni paese ha un suono diverso e quindi esprime un'identità sonora. C'è questo aspetto, poi l'aspetto delle storie, il fatto che esiste sempre meno questa situazione in cui è il nonno che racconta le storie in casa, per vari motivi la società si è polverizzata, non esistono più le situazioni in cui ci si può raccontare storie. Per esempio, io e Sara siamo stati sicuramente attratti da questi temi, perché abbiamo avuto due genitori che hanno raccontato tante storie da bambini, e quindi il fatto anche di riuscire alle nuove generazioni di avvicinarli al territorio attraverso queste storie, che, come diciamo sempre ai bambini, non verranno mai scritte su un libro di storia, non è mai storia ufficiale questa, però ha dignità, se non superiore, a livello comunitario, perché è quello proprio che esprime un senso di stare assieme, il condividere storie. Vi rivolgete anche a una tutela dell'ambiente in qualche maniera, una tutela dell'ambiente dal punto di vista ecologico, del suono? Sì, decisamente. Abbiamo scoperto qualche anno fa il concetto di terzo paesaggio sonoro, e del fatto di andare a scoprire per esempio i suoni di territori o luoghi abbandonati, anche come riflessione su un futuro utilizzo o non utilizzo, ma comunque ponendo la riflessione su queste, un altro termine di oasi sonore, cioè del fatto di poter assaporare un suono nel territorio e anche di salvaguardarlo. Abbiamo sviluppato con i bambini per esempio anche un'idea di luoghi del cuore sonori, che ultimamente sono sempre più all'attenzione anche dei piani urbanistici, perché un luogo con dei suoni particolari deve essere salvaguardato, fa parte della qualità della vita di una comunità. Ascoltiamo ora una produzione di Porto Beseno 2012, una composizione dell'artista coreana Ji Yeon Kim. Dopo una residenza di alcuni giorni sul territorio della Vallagarina spesa alla scoperta del paesaggio sonoro del territorio, la sound artist coreana Yeon Kim ha sviluppato una performance a partire dai materiali raccolti. Davide Ondertoller, quale tipo di artisti, quali opere ricercate, che tipo di interventi vengono attivati rispetto alle tematiche del paesaggio sonoro? Abbiamo sviluppato tanti progetti sotto il profilo della ridonazione degli archivi che si stavano creando e che stavamo raccogliendo io e Sara Maino, che sono, come dicevo prima, appunto archivi di fonti orali e archivi di paesaggi sonori, microsuoni, altri tipi di suoni legati al territorio. Il lavoro con gli artisti è stato di riutilizzo di questi archivi e quindi di interpretazione oppure di residenza, quindi sviluppando dei progetti mirati sul territorio dove l'artista appunto in maniera autonoma svolgeva questa ricerca partendo da dei punti teorici come quello di Gion sul terzo paesaggio, oppure quello, il lavoro di Daniela Cattivelli su un luogo particolare, quindi da un concetto teorico oppure semplicemente scegliendo un luogo per narrarlo, perché è una narrativa anche questa. Certo. Il festival si svolge a Castel Beseno, si svolge anche in altre sedi. Che significato ha lo spazio di Castel Beseno? Come influenza le opere che vi vengono realizzate? Il festival è nato a Castel Beseno perché ci eravamo accorti di questa emergenza culturale, del fatto che il castello ospitava essenzialmente manifestazioni turistiche slegate dal territorio. La nostra idea era appunto, ed è tuttora, di invece inserire il Castel Beseno in quello che è la sua missione storica, che è di punto centrale del territorio. Ricordiamoci che un castello non era solo un fortilizio, ma era un centro amministrativo, economico, culturale del territorio. Il castello, dal momento in cui diventa rudere dall'arrivo di Napoleone e successivamente tutti i crolli e poi il recupero da parte della provincia, aveva perso questa funzione, cioè di essere un imbuto culturale, anche un momento di incontro e di riflessione intorno a comunità e territorio. Quindi proprio i primi lavori sono stati strategici sul fatto della memoria, di entrare in castello con un bagaglio culturale solido, che era quello raccolto attraverso gli anziani, che era tutta la memoria del Novecento. Abbiamo scoperto che fino agli anni 60 a Castel Beseno si facevano le feste, e quindi per noi è stato importante recuperare questa idea di castello al centro e collina che controlla, che è sentinella culturale, sociale del territorio. Ascoltiamo ora Community Sync, un'installazione sonora acusmatica di Stefano Zorzanello. è un estratto audio di questa produzione di Porto Beseno del 2010. Il canto del gallo e la campana della chiesa sono due esempi di marcatori sonori che fungono da sincronizzatori sociali. L'udito è il primo senso che si attiva al risveglio. Il canto del gallo rappresenta l'inizio di un aprirsi dei sensi alla giornata. Significativamente, l'installazione è stata proposta nel varco spaziale che segna l'ingresso alla residenza dei signori del castello. Quali sono i riferimenti culturali del vostro progetto, anche per ritornare un po' all'idea del paesaggio sonoro e all'idea di ecologia sonora? Una cosa che non ho citato è che il progetto e il festival Porto Beseno ha un sottotitolo piuttosto curioso che si chiama Viaggio tra fonti storiche e sorgenti web, che si collega all'idea di porto. Perché? Perché la nostra idea era di sviluppare anche un concetto intorno all'acqua che fluisce, che è la memoria e che comunque è un elemento che è legato molto al castello, del fatto che l'economia medievale era completamente dipendente dall'acqua e del fatto poi che c'è questo aspetto visivo notturno del castello che molti lo riconoscono come una nave. E poi c'era il fatto che non esiste un toponimo porto in Trentino. Cioè sono tutti rimandi al fatto di ascoltare il territorio e di cercare una possibile rielaborazione, in chiave creativa sicuramente, ma di ricercare anche nuovi modi di viverlo, pur rimanendo ancorati con i piedi per terra a una tradizione che non è mai ferma. Quindi non vogliamo una situazione di narrare quello che ironicamente noi li chiamiamo paesaggi tipici. Il tipico va bene per magari per un'economia turistica, ma non va bene per invece una situazione culturale che ha bisogno di nuova linfa, ha bisogno di nuove energie. E quindi dare la possibilità anche alle nuove generazioni di sviluppare idee pur rimanendo sul territorio. In che maniera la tecnologia può diventare essenziale rispetto ai vostri progetti? Ma noi abbiamo usato la tecnologia essenzialmente come uno strumento, è sempre stato il mezzo, mai il fine, quindi la giusta tecnologia che ci serviva. Abbiamo collaborato con vari tecnici, da programmatori software a tecnici di hardware, ma sempre partendo da un concetto filosofico, politico, sociale, insomma, e quindi non è mai stata sviluppata come motivo principale della nostra azione, ma utilizzata solo per quello che serve, in effetti. Ma mai mi viene in mente degli esempi: il castello è talmente bello che avevamo deciso, per esempio, di portare il minimo di tecnologia, anche rimanendo fedeli alla difficoltà di entrare e di organizzare eventi e installazioni nel castello. Per esempio, tutti i trasporti vanno effettuati con il trattore agricolo, per esempio, e quindi questa estrema difficoltà, ma poi ci siamo accorti che semplicemente era un dialogo con il luogo che andava fatto, e quindi la tecnologia rientrava solo per quello che serviva, non è mai stata fondamentale per noi. Dal suo punto di vista, quali sono le esperienze più interessanti che si stanno sviluppando nel campo della sperimentazione sonora che si raccorda alle questioni del paesaggio sonoro. A noi è fatto molto piacere scoprire negli anni, perché stiamo parlando di un progetto che parlare di memoria orale e la sua rielaborazione artistica nel 2004, diciamo che non è stato semplice introdursi anche con gli amministratori pubblici, piuttosto che con la direzione del castello, perché anche se sembra un argomento assodato, invece essendoci state esperienze precedenti importanti di raccolte e rielaborazione, soprattutto di memoria orale in Trentino, ci siamo trovati nella situazione che ci siamo accorti negli anni che iniziavano altre iniziative, altre realtà nascevano che studiavano questi aspetti. Con alcune abbiamo anche iniziato delle collaborazioni, superando anche quel concetto di festival che deve andare avanti da solo, in maniera a compartimenti stagni, insomma. Per esempio, con un festival in Irpinia, il lavoro della coreana Jeon Kim è stato sviluppato proprio con una doppia residenza. E quindi per noi è stato molto importante cercare dei collegamenti a livello nazionale, proprio perché era anche un altro motivo sociale il fatto che il paesaggio sonoro poteva unire molto di più di ricerche artistiche più chiuse, diciamo, nel loro sviluppo, ma che invece il paesaggio sonoro e la memoria orale potessero invece dar la possibilità di creare nuove forme di collaborazione tra diversi settori. Avete intenzione anche di espandere il vostro campo di azione dal punto di vista, diciamo, geografico, cioè analizzare ad esempio altre zone del Trentino o altri posti a livello nazionale? Beh, devo dire subito che per noi è molto difficile uscire dal castello, perché è un luogo incredibile sia dal punto di vista paesaggistico, noi lo chiamiamo anche uno spartiacque sonoro. La collina di Beseno divide due ambienti molto diversi, che è la valle del Rio Cavallo che sale a Folgaria e la valle dell'Adige, e dal punto di vista sonoro sono veramente come una specie di voltare una pagina, due capitoli diversi del paesaggio sonoro trentino. Quindi per noi il castello è molto importante come contenitore sociale, proprio per poter sviluppare lavori sul territorio. E dall'altra abbiamo svolto delle attività anche dal punto di vista del festival fuori dal castello. Per noi rimane comunque imprescindibile rimanere e sviluppare in quel posto i nostri progetti. Prima di chiudere la nostra trasmissione vogliamo annunciare, Cosimo, il pezzo che appunto darà fine al nostro... È l'opera La voce delle cose, performance e installazione sonora di Sara Lenzi, regia del suono e progettazione sonora di Luigi Mastrandrea e Vinicius Giusti. L'opera indaga il rapporto tra alcuni oggetti della vita quotidiana, i loro suoni, i suoni dell'ambiente circostante, le voci degli abitanti. Ci sono degli oggetti collocati tra il pubblico che sono trasformati grazie ad una innovativa tecnologia audio. L'archivio di riferimento per i suoni del progetto è la raccolta di interviste realizzate in occasione di Lagarina Sonora ad anziani di Besenello, Cagliano e Folgaria, aventi come oggetto la memoria del Novecento del castello di Beseno. Allora, mentre inizia il nostro brano musicale di chiusura, ringraziamo appunto Davide Ondertoller per essere stato qui ospite da noi. Grazie a voi. Grazie Davide. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, un cordiale saluto da Daniele Torresanna e Cosimo Colazzo e da Dino Gonzo alla console tecnica. Tutti sbatteva con un sasso alla porta, perché la porta aveva un ferro, e si batteva con un sasso alla porta e veniva ad averlo in sasso, ma in generale era sempre che guardi. Non si è più.